Ho riflettuto a lungo sulla vita delle donne che non sono sposate né potranno mai esserlo e sono giunta alla conclusione che non vi sia nulla di più rispettabile sulla terra di una donna che giorno dopo giorno costruisca la propria vita con pazienza e tenacia, senza il supporto di un marito o di un fratello. Questa considerazione, scritta da Charlotte Bronte in una sua lettera, ci fa comprendere più di qualunque altra chi sia questa incredibile donna. Charlotte è l'assennata, lucida, integerrima, sincera Jane Eyre ed è anche la timida ma determinata Lucy Snow, l'insegnante protagonista del suo ultimo poco conosciuto romanzo semibiografico Villette. Charlotte, come le sue personagge, è una donna operosa, paziente, generosa, intelligentissima, che non si lamenta, che scrive con rara proprietà di linguaggio e profondità, che ama e rispetta le sue sorelle e non solo quelle biologiche. Tuttavia, nonostante le sue considerazioni sul valore delle donne non sposate, che ho citato all'inizio, Charlotte alla fine sposerà come Jane Eyre, ma senza la felicità e la gioia coniugale che le attribuì nel romanzo. Infatti, il suo matrimonio tardivo durò pochissimi mesi, poiché morì per complicazioni dovute alla gravidanza. Ebbe ben pochi momenti di felicità nella sua difficile vita, ma la mise a frutto in modo encomiabile, lasciandoci i pochi straordinari romanzi che ebbe il tempo di scrivere e il grande amore ricambiato per le sue sorelle, Emily e Anne, tanto che ancora oggi la parola Bronte è simbolo di sorellanza. Le lettere di Charlotte Bronte, lette da Giorgia per la Scuola delle Donne, sono una carezza per l'anima, ci fanno sentire sostenute, comprese, incoraggiate nei nostri momenti duri dalla tenacia e dal coraggio che albergavano nel cuore e nel corpo di questa preziosa donna della brughiera, un grande insegnamento di dignità e di valore. Di Charlotte è presente nel nostro canale anche l'audiolettura integrale di Jane Eyre, di cui lascio il link nella presentazione qua sotto. Da Devana, buon ascolto.